Stamattina io ho proprio il desiderio di cominciare questo messaggio facendovi prima di tutto riflettere sulla Chiesa, no? Perché noi pensiamo alla Chiesa, molto spesso quando pensiamo alla Chiesa pensiamo alla famiglia, no? Ed è giusto che sia così, la famiglia di Dio è la Chiesa. In Efesini c'è scritto: non siamo né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. La sappiamo tutti, lo sappiamo tutti a memoria questo verso, sì. Quindi la Bibbia ci mette in chiaro che la Chiesa è la famiglia di Dio, però la Bibbia mette anche in chiaro che la Chiesa è l'esercito di Dio. In Efesini al capitolo 6 c'è scritto che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze del maligno, contro i dominatori di questa terra. Quindi la Bibbia ci mostra anche che la Chiesa è un esercito, perché se noi siamo dei soldati e ci viene invitato proprio in quel capitolo a indossare l'intera armatura, insieme formiamo un esercito che va in battaglia e che conquista nuovi territori. Amen. Questa è una cosa bella, perché noi siamo in una missione, noi siamo davanti a delle sfide, noi siamo davanti a delle battaglie e insieme conquistiamo. Non solo individualmente tu conquisti, non solo individualmente sei un soldato, ma insieme formiamo un esercito imbattibile, perché abbiamo un capitano, un generale in battaglia che non perde una singola sfida, non perde una singola battaglia. Amen. Il nostro Gesù è grande e potente in battaglia, lui è l'eterno degli eserciti, lui conquista. Non c'è battaglia e guerra che preveda la sconfitta di Cristo. Amen. Gesù ha vinto, vince e vincerà sempre. Vi ricordate quella pubblicità? Vuoi vincere facile? Non vi parlo di che cos'è quella pubblicità, perché è una cosa che non ci appartiene, però quella pubblicità fa pensare, no? Perché fa vedere queste occasioni dove è automatica la vittoria, no? È proprio un messaggio sbagliato per quello che viene proposto da quella pubblicità. Però per noi che siamo figli di Dio, appartenere a Cristo Gesù significa vincere facile. Perché lui ha sempre vinto, sempre vince e sempre vincerà. Quindi se tu ti schieri dalla parte di Gesù, tu sei dalla parte della vittoria già certa, già certa. Non è una battaglia che ti fa esitare, non è una battaglia che ti porta a credere ma chi lo sa quale sarà l'esito, chi lo sa come andrà. Non c'è esitazione se Cristo Gesù è il tuo comandante, perché lui vince sempre. E noi siamo una Chiesa che è fondata sulla parola di Dio, che crede in Cristo Gesù e appartiene al capitano, al re, al sovrano, e noi quindi di conseguenza siamo una Chiesa che vince. Amen. Noi non perdiamo, non c'è perdita per la Chiesa, non c'è sconfitta per la Chiesa. Noi andiamo di gloria in gloria, di vittoria in vittoria, e noi questa settimana vedremo delle bellissime vittorie. Amen. Io ne sono convinto. Anzi, già le stiamo sperimentando, già stiamo vivendo delle vittorie. E io voglio invitarti, se stai affrontando una sfida nella tua vita, se sei nel centro di una battaglia, non avere timore, non avere esitazione. In Cristo Gesù hai già tutto ciò di cui hai bisogno. Hai tutta la vittoria, perché Lui vince sempre. Questo è l'incoraggiamento che voglio darti. Quindi siamo un esercito. Amen. E io amo questo esercito, io amo far parte di questa Chiesa, io amo te che mi stai sorridendo in questo momento, amo anche te che c'è la faccia assonnata e ti stai ancora svegliando, io ti amo, chiunque mi sta ascoltando in questo momento, ti voglio dire che io ti amo, perché amo far parte di questo esercito che va avanti, vi voglio bene, anche in ultima fila, vi voglio tutti molto bene. E lo so che ci vogliamo bene e siamo famiglia, però voglio chiederti questa mattina, vuoi riconoscere nel tuo fratello, nella tua sorella, un alleato? Perché quello che hai vicino, a fianco, a destra, a sinistra, non è solo un fratello, non è solo una sorella, non è solo una persona che ti incoraggia, non è solo una persona che ha creduto come te in Cristo Gesù, ma è un alleato in battaglia. Con lui, con lei, con il tuo fratello, con la tua sorella, tu conquisti, tu vai avanti, tu vai di gloria in gloria. Quindi io vorrei che noi facessimo quello che tanto ama il nostro pastore farci fare, no? Per decenni, decenni di saluti, decenni di baci, decenni di abbracci hanno forgiato questa chiesa, questa unità, e quindi noi non vogliamo rinunciare a questo momento rituale oramai della nostra chiesa, e vogliamo abbracciarci e vogliamo dirci che ci vogliamo bene, ma vogliamo anche dare credito a quello che ho appena detto e dire: tu sei alleato con me in questa battaglia, insieme vinceremo. Dai una parola di incoraggiamento al tuo soldato che ti affianca e che tu sei disposto a sostenere nella battaglia anche di questa settimana. Non siamo soli, siamo insieme e vinciamo. Quindi ci alziamo in piedi, cerca qualcuno, soprattutto se è qualcuno che non saluti spesso, e vallo a incoraggiare, digli: tu sei un soldato in battaglia. Facciamolo anche a Mottola, approfitto per salutare i mottolesi. Mottolesi, salutatevi, abbracciatevi e incoraggiatevi nel fatto che siete un esercito che, per quanto possa sembrare piccolo, ha una potenza meravigliosa in Cristo Gesù di conquistare e andare di gloria in gloria anche a Mottola. Un abbraccio a tutti i mottolesi. La scorsa settimana abbiamo sentito un messaggio che ci è stato dato da Anthony, dal pastore Anthony del Canada, e lui diceva: vai avanti pieno Vangelo. Quindi dove ti trovi, scuotati la persona che c'hai vicino e digli: vai avanti, non rimanere fermo, non tornare indietro, assolutamente nessuno di noi si tira indietro, andiamo avanti. Io stamattina voglio leggervi due storie dalla Bibbia, e sono due storie bellissime. La prima è probabilmente la storia più bella del Vecchio Testamento, almeno a mio parere. Ok, quella che vi sto per leggere è una storia a me cara, perché è bellissima sotto ogni punto di vista, e la vogliamo leggere insieme. Ci troviamo nel libro di Daniele, ci troviamo a leggere la storia di quest'uomo e dei suoi tre amici, e nello specifico andiamo a leggere da Daniele capitolo 3, dove leggiamo l'atto eroico e di fede che... Aspetta che mi devo ricordare i tre nomi. Mesach, Sadrach è il primo, ecco, non mi veniva Sadrach, perché da lì poi parte tutto, no? Sadrach, Mesach e Abednego. Se stai scegliendo dei nomi per i tuoi figli, non aprire il libro di Daniele, per piacere, perché da Nabucodonosor a Sadrach, Mesach e Abednego non te la cavi. Quindi leggiamo insieme da Daniele capitolo 3 versetto 1 questa meravigliosa storia. Leggiamo che il re Nabucodonosor... Immaginate di chiamare vostro figlio Nabucodonosor, prima che lo chiamate, insomma, è già passato tutto. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Saltiamo al verso 7, dice: non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor: o re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere invece gettato nella fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto. Ascoltate queste parole perché sono bellissime. Non ti danno ascolto, questa è una santa ribellione. Ok? Sapete che nella Bibbia c'è una ribellione che è accusata e condannata, che non è giusta, che non è da parte di Dio, però c'è anche una ribellione che è santa. Qui stiamo leggendo letteralmente di una rivoluzione, di un atto rivoluzionario di tre uomini che non danno ascolto al re, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. E Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi, il re dà un'altra occasione a questi uomini, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta, ma se non la adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Guardate ora come rispondono Sadrach, Mesach e Abednego. Non accettano neanche la seconda opportunità. Non accettano compromesso e danno questa risposta al re. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di risponderti su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ora la storia va avanti perché a questo punto già il re era arrabbiato, qui diventa furioso, fa riscaldare 7 volte di più la fornace ardente, al tal punto che le persone che buttano Sadrach, Mesach e Abednego nella fornace ardente muoiono ustionati, folgorati dal calore di questa fornace ardente. Però quello che ha dell'incredibile è che questi tre uomini sopravvivono alle fiamme. Si presenta loro un quarto uomo, che è la figura di Gesù Cristo, nella fornace ardente, e loro escono dalle fiamme di questa fornace, pensate un po', senza che i loro vestiti siano neppure bruciati e neanche puzzassero di fumo. Questa è la liberazione che Dio dà ai suoi figli. Questa è la vittoria che noi abbiamo in un Dio onnipotente. Lui ci fa vincere. Però perché non ho letto il resto della storia? Non voglio commentare il resto della storia, perché quello che mi interessa di questa storia, che vorrei condividere con tutto il mio cuore a voi, è proprio questa parte che abbiamo appena letto. Il fatto che questa storia ci parla di tre uomini che non si piegano al compromesso. Il re Nabucodonosor fa erigere una statua di 60 cubiti. Sapete quanti metri sono? 27 metri. È un palazzo di 9 piani. Immaginate un palazzo di 9 piani, largo 3 metri. Una statua che si erige snella, alta, piena d'oro, brillante. Una vista che deve essere stata una cosa incredibile. Noi siamo abituati ai palazzi alti, noi siamo abituati alla vista di edifici fatti da mano d'uomo così elevati, ma all'epoca doveva essere qualcosa di strabiliante, già solo la vista di una statua d'oro alta 9 piani. E quindi tutti i popoli, tutti i responsabili, tutte le autorità di tutte le province, al suono di questa celebrazione, questa inaugurazione, tutti si abbassano, tutti si piegano, tutti si prostrano davanti a questa statua, tranne questi tre uomini. E io me li immagino là, in piedi, impettiti. Sadrach che dice a Mesach: Oh, non ci pieghiamo, vero? Mesach e dice Abednego, non esiste proprio, questa è una cosa non la faremo mai, noi non ci abbassiamo, noi non ci inchiniamo, abbiamo un Dio che onoriamo e a Lui rimarremo fedeli. Ora, questi discorsi non ci sono scritti, non sono riportati nella Bibbia, ma sicuramente questa storia ci parla di tre uomini che non sono disposti ad abbassarsi al compromesso dell'idolatria. Non sono disposti ad adeguarsi alla scelta e alla posizione che tutta la società attorno a loro sceglie di assumere. E questa è l'immagine della Chiesa. Noi siamo qui perché stiamo in piedi. Se la scorsa settimana abbiamo sentito un messaggio che ci parlava di andare avanti, io stamattina ti voglio parlare di alzarti in piedi. Alzati in piedi nel posto in cui ti trovi. Alzati in piedi e non abbassarti, non adeguarti a ciò che ti circonda. Questa è una storia di tre uomini che non scelgono di compromettersi per nessuna ragione al mondo, neanche davanti all'evidenza della morte, neanche davanti alla condanna di morte. Neanche davanti alla più brutta delle condanne di morte per ustione, bruciati vivi in una fornace ardente. Davanti a questa minaccia loro non scelgono di prostrarsi. E questo lo possiamo riportare alle nostre vite, perché noi ogni giorno ci troviamo davanti all'ingombro di statue che si elevano. Noi ogni giorno siamo esposti davanti a delle idolatrie che si elevano nella nostra vita e vogliono essere ingombranti e luccicano, brillano per prendere la nostra attenzione, per portarci in direzioni che non sono quelle che Dio ha prestabilito per noi. Ma è tempo, questo è il tempo che la Chiesa rimanga in piedi. Rimanga in piedi in una società che è corrotta, rimanga in piedi in una società che sceglie il compromesso, rimanga in piedi davanti ad ogni distrazione di idolatria. Che cos'è l'idolatria? L'idolatria non sono solo statue. L'idolatria è una tentazione alla quale noi siamo esposti giornalmente, e qualsiasi cosa che ingombra le nostre giornate e ci fa dimenticare di Dio e mettere in secondo piano l'importanza di riconoscere che abbiamo un Dio, un sovrano, un re sulla nostra vita. Qualsiasi cosa tu stamattina riconosci essere un ingombro e idolatria nella tua vita, e stamattina hai la possibilità di dire: io non voglio abbassarmi, io non sono disposto a continuare a vivere nel compromesso, io rimango in piedi, anche se rimanere in piedi significa essere perseguitato, additato e buttato a vivere una condanna, buttato a vivere le fiamme di una fornace ardente. Oggi è il giorno nel quale tu e io decidiamo di rimanere in piedi. Io voglio rimanere in piedi davanti ai compromessi di questa società. Io voglio vivere per uno scopo maggiore, che è quello di glorificare il mio Dio e non qualsiasi altra cosa che c'è attorno e che viene inseguita dalla società che mi circonda. Sei con me? Siamo parte dello stesso esercito e viviamo questa santa alleanza. Questa storia ci parla di uomini che hanno scelto di non compromettersi, e ci parla di uomini che hanno scelto di non adeguarsi alla maggioranza. Vi rendete conto che questa è una minoranza? Vi rendete conto che davanti a migliaia di persone tre è un numero minore? E molto spesso, anzi è proprio destino della Chiesa essere parte di una minoranza. E non lo dico per scoraggiarci. Lo dico perché noi dobbiamo renderci conto che è una gloriosa minoranza quella di cui facciamo parte. Gesù ha detto in Matteo 7,13: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e ascoltate ora, e molti, molti sono quelli che entrano per essa. Molti sono quelli che entrano per essa, molti entrano per la porta larga, molti vanno avanti nella via spaziosa, molti vanno avanti in quella via. Ma noi facciamo parte di quei pochi che scelgono la porta stretta, noi siamo parte di quei pochi che scelgono la via angusta, ed è una minoranza gloriosa. È una minoranza gloriosa che vuole impattare la maggioranza. Sapete cosa succede nella storia? è che questa scelta di questi tre uomini porta il re ad onorare Dio e l'intera nazione a riconoscere che questo Dio, il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, andava rispettato e onorato. Noi siamo chiamati ad essere quei pochi che influenzano molti e che molti vengano con noi ad intraprendere quella strada che è stretta e a varcare la soglia di quella porta che è stretta. Amen. Ci piace questo? Questa è una storia che ci parla di compromesso, di non piegarsi al compromesso, di non seguire la maggioranza, di uomini che si sono distinguiti al lavoro, distinguiti a scuola, distinguiti nel tuo condominio, distinguiti nella tua città, nel tuo paese, distinguetevi mottolesi, distinguetevi nella città in cui vi trovate, distinguiti dove ti trovi, fai in modo che si veda che tu stai in piedi, fai in modo che si veda che tu non ti abbassi. Sadrach, Mesach e Abednego non è che sono rimasti in piedi a metà, non è che hanno detto: senti, per non farci vedere facciamo una cosa, non è che ci pieghiamo del tutto, però un po' ci facciamo piccoli, così nessuno ci vede, c'è tanta gente. No, questi, io credo, per essere stati visti, si sono impettiti, e forse qualcuno ha detto: perché non ci mettiamo l'uno sopra l'altro così ci vedono per bene? Cioè, Sadrach, Mesach e Abednego hanno dato testimonianza della loro posizione. Dai testimonianza della tua posizione, non vergognarti della tua posizione, non vergognarti della verità, perché le cose sbagliate vengono promosse e vengono pubblicizzate con tanta facilità e da parte di tutti, ma rimangono sbagliate. Anche quando una cosa sbagliata è fatta dalla maggioranza, rimane sbagliata. Quindi promuovi la verità, promuovi la parola di Dio. È una storia che poi ci parla anche di avere fede nella prova. Fede nella prova. Il nostro Dio, dicono questi tre ragazzi, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ora io immagino che questi tre ragazzi avessero pensato a un intervento di Dio diverso da quello che poi hanno sperimentato. Io immagino che questi ragazzi, nel dire queste parole, hanno detto: Dio interverrà, non ci farà neanche entrare in quella fornace. Dio interverrà e fermerà la mano del re. Dio non permetterà. Ma loro sono entrati nella fornace ardente. E sapete una cosa? Io lo dico esplicitamente perché c'è un'altra scrittura nella parola di Dio che ci parla che proprio la nostra fede è provata con il fuoco della prova, il fuoco delle difficoltà, il fuoco di andare. Noi non sappiamo fin dove Dio ci porta. Sadrach, Mesach e Abednego non sapevano fino a che punto Dio li avrebbe portati, ma erano disposti anche alla morte. Perché anche nella morte loro vedevano che c'era gloria. Dio in ogni prova che ti mette davanti ti dà la possibilità di glorificare il suo nome e dare testimonianza di quanto grande lui è. Fammi ti dire questa cosa stamattina: non c'è fornace ardente che Dio ha previsto per la tua vita che non abbia una ragione, uno scopo, se non quello di glorificare il suo nome e la sua grandezza. Amen. Non c'è nessuna fornace ardente dove tu ti ritroverai che è fuori dal controllo di Dio, che Dio non si aspettava e che Dio non ha permesso. Perché nella fornace ardente è lì che Dio prende maggiore gloria. È lì che noi troviamo che la testimonianza di Sadrach, Mesach e Abednego si eleva ad essere qualcosa di meraviglioso. Pietro, l'apostolo Pietro, nella sua lettera dice: ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché, ascoltate ora, la vostra fede che viene messa alla prova, la tua fede viene messa alla prova, quello che stai attraversando è un mettere alla prova la tua fede, quello che stai attraversando, le fiamme della fornace ardente sono lì per metterti alla prova, ma ascoltate ora, che viene messa alla prova la fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove saranno motivo di gloria, di lode e di onore quando Gesù si manifesta. E Gesù si manifesterà. Alla fine di questi tempi Gesù si manifesterà e Lui prenderà gloria su tutto, perché tutti capiranno che ogni cosa era perfettamente sotto la sua guida e noi, quale popolo suo, avremo modo di lodarlo e ringraziarlo, perché capiremo perché abbiamo attraversato tutte le stagioni della nostra vita, tutte le sfide, tutte le prove, e daremo gloria a Lui. Ma Gesù vuole manifestarsi anche oggi. Non sta aspettando solo di manifestarsi quando tornerà. Lui vuole manifestarsi oggi nella tua vita e nella tua vita manifestarsi per mostrare quanta gloria ha, quanto bello è, quanto onore è meritevole di ricevere, quanta lode gli spetta, perché Lui nelle fornaci ardenti ci tira fuori con gloria e con potenza. Amen. L'altra storia che volevo leggervi è quella di Pietro. Anche loro, Pietro e gli undici, si alzano in piedi il giorno di Pentecoste. Lo leggiamo insieme. Atti capitolo 2, dal versetto 5. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Vedete il parallelismo della storia. Anche qui, a Gerusalemme, ora, ci sono tutte le nazioni, tutti i popoli. Quando avvenne quel suono, il suono della venuta, del vento impetuoso dello Spirito Santo, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare, pensate quante lingue, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce, sono ubriachi, hanno perso il senno, sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, ascoltate ora, ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così. E qui comincia il messaggio, la predicazione di Pietro, che porta 3.000 persone a salvezza. Quello che leggiamo però è straordinario, lo dobbiamo contestualizzare, ma ora che lo contestualizzeremo insieme capirete perché è così straordinario. È straordinario che Pietro si alza in piedi, è straordinario che Pietro nella città di Gerusalemme, un mese e mezzo dopo che Gesù è stato crocifisso, si alza in piedi. Noi sappiamo l'esito della storia, noi sappiamo come va avanti il racconto, ma letteralmente l'alzarsi in piedi di Pietro e degli undici è una dichiarazione altrettanto potente come quella di Sadrach, Mesach e Abednego, dove anche loro in questa occasione dicono: siamo disposti a morire, siamo disposti a morire per l'annuncio di Cristo. Perché noi dobbiamo comprendere che stiamo parlando della stessa Gerusalemme dove poche settimane prima Gesù è stato arrestato, torturato e ammazzato. E dove Pietro, vi ricordate Pietro nell'arresto? Vi ricordate Pietro durante la passione di Cristo? Se l'ha data a gambe, ha rinnegato Gesù per 3 volte, ha bestemmiato pur di non essere riconosciuto quale parte dei discepoli di Cristo. È la stessa Gerusalemme, le stesse autorità che hanno crocifisso Gesù erano le autorità che ora ascoltavano Pietro e gli undici. La stessa folla che ha reclamato Barabba e ha detto a Gesù che sia crocifisso era la stessa folla che stava ora davanti ai dodici e li vedeva parlare in nove lingue e ascoltare delle opere di Dio. È la stessa folla, è la stessa città, sono le stesse autorità e non si dimostrano essere poi così accoglienti nel ricevere quello che stanno vedendo, perché cominciano a schernirli, cominciano a prenderli in giro e a dire che sono ubriachi. Tutto in quel momento poteva dire a Pietro: qui ora sarai tu ad essere arrestato, qui ora sarai tu ad essere torturato, qui ora toccherà a te essere crocifisso. Capite perché è straordinario quello che Pietro fa? Capite perché è straordinario che anche gli undici si alzano con Pietro a dire: noi siamo con lui, noi ci alziamo insieme. E questa è di nuovo l'immagine della Chiesa. Questa è l'immagine di un corpo unito, questa è l'immagine di un esercito che si eleva in unità. Ciò che accomuna le due storie sono sante alleanze. Tre amici che insieme rimangono in piedi, 12 discepoli che insieme si elevano, si alzano in piedi per annunciare Cristo in una città dove molto probabilmente sarebbero stati ammazzati, ma dove vedono conversione, salvezza e battesimi di migliaia di persone. Oggi è il tempo nel quale la nostra Chiesa si alzi in piedi e lo faccia in unità per annunciare quel Cristo che oggi ha la stessa potenza di salvare migliaia di persone, di portare migliaia di persone al battesimo e alla nuova nascita, a portare migliaia di persone a riconoscere chi è e a una città ad essere completamente messa sotto sopra, Gerusalemme. Negli Atti degli Apostoli noi leggiamo che ha varie ondate di risveglio, fino ad arrivare, gli studiosi dicono, a una stima del 40% della città convertita. Sapete che significa? Che le stesse autorità che hanno crocifisso Gesù, molte di loro si sono convertite a lui, che molta metà di quella folla che ha voluto Barabba ora si è convertita a Cristo e la città intera si è arresa all'annuncio. Forse Modugno non si è ancora arresa al 40%, anzi sicuramente, ma noi possiamo credere di poterlo vedere in questo tempo e quello che dobbiamo scegliere di fare è alzarci in unità in piedi come Chiesa e annunciare Cristo, perché nell'annuncio dell'Evangelo che c'è conversione. L'Apostolo Paolo dice in Romani 10: come crederanno? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E noi come Chiesa siamo chiamati a parlare di Cristo e annunciare l'Evangelo. Noi siamo chiamati a portare l'Evangelo nelle strade, nelle piazze, nei condomini, nelle scuole, nei nostri posti di lavoro, senza vergogna, senza timore, senza adeguamento alla massa, senza timore di essere visti come dei diversi. Noi vogliamo essere dei diversi, noi vogliamo distinguerci, amen? E noi vogliamo annunciare Cristo. Stamattina abbiamo la possibilità meravigliosa di partecipare insieme alla cena del Signore, che è qualcosa che ci unisce, perché ci fa ricordare che insieme siamo stati salvati per il sangue che Gesù ha versato, per il suo corpo che è stato torturato. Noi siamo uniti in questo, ma stamattina abbiamo l'opportunità, in questo tempo nel quale celebriamo la morte e la resurrezione di Cristo, per dire: noi siamo uniti per alzarci in piedi e annunciare quel Cristo che è risorto a una generazione che è corrotta ed è distante da Lui. È una scelta che noi facciamo di non vergognarci dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per coloro che credono, per chiunque crede. Questa è una settimana speciale, Chiesa. È una settimana speciale e unica perché noi siamo uniti al corpo di Cristo da altre parti del mondo. Ci stanno raggiungendo persone dall'America, ci raggiungeranno ragazzi dalla Norvegia, verranno da ogni parte d'Europa, verranno ministri di Dio e verranno in questa città perché vogliono lottare insieme a noi per la conquista di anime, perché vogliono lottare insieme a noi affinché l'annuncio dell'Evangelo porti ancora salvezza in questa città. E noi abbiamo questo meraviglioso privilegio di poter unire le truppe, fatemi dire così, e combattere insieme. Questa è una settimana nella quale tu puoi fare la differenza e dire: io non mi abbasso, io non rimango adeguato a quello che mi circonda, io non voglio ingombri nella mia vita, io non voglio l'idolatria, io voglio alzarmi in piedi e testimoniare. Questa è una settimana che puoi vivere tutta in chiesa. Forse non abbiamo potuto dare tutte le notizie, ma ve le do brevemente. Domani sera abbiamo insieme l'opportunità di evangelizzare in piazza. Tutti insieme alle 19 possiamo vederci qua. Martedì sera potete venire qua alle 19 per pregare insieme. C'è già un team di intercessori che si è unito e sta intercedendo e intercederà per tutto l'evento. Martedì sera alle 19, mercoledì alle 19, come abbiamo sentito, avremo l'evento dove l'evangelista e pastore Stefan Christiansen parlerà alla Chiesa e unirà le truppe per quella che è la battaglia che ci sta davanti. Giovedì avremo di nuovo l'opportunità di venire qui in Chiesa alle 19 per un altro tempo di intercessione. E poi venerdì, sabato e domenica scenderemo in piazza insieme dalle 18:30 alle 21 circa per evangelizzare, invadere le piazze, invadere le strade e dire in chi noi crediamo a tutta la città. Amen. Io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora di vedere altre persone salvate. Amen. Io non vedo l'ora di vedere altre persone strappate dalle vie del maligno. Io non vedo l'ora di vedere altri giovani che vengono riscattate da vie perverse, da scelte che possono condurli a morte, per vederli riscoprire il destino di vita che Dio ha per loro. Io non vedo l'ora di vedere famiglie rotte ricostruirsi, matrimoni ripararsi. Io non vedo l'ora di vedere questo in un numero crescente nella città di Modugno, nella nostra regione e in questa nazione. E affinché tutto questo accada, non c'è spazio per idolatria. Non c'è spazio per distrazioni. Non c'è spazio per film, serie televisive, PlayStation. Non c'è spazio per ingombrare il nostro tempo con cose inutili. Non c'è spazio per guardarci allo specchio e farci belli. Non c'è spazio per perdere tempo in tutto quello che la società ricerca e insegue. Non c'è spazio per questo. Perché se fai spazio a queste cose, ti pieghi. Perché se fai spazio a queste cose, rinunci. Ma se scegli di dire oggi: il mio tempo è il tempo per Dio. Le mie risorse, i miei talenti sono per la sua gloria. Il mio stare in piedi è per annunciare con fermezza il Dio nel quale credo. Il mio tempo è per amare, per servire, per ministrare ad altri. Non ho paura di vedere persone venire a conversione che avranno bisogno di un caffè con me e avranno bisogno di tempo con me, che io spenderò per leggere con loro la Bibbia, per portarli a crescere, perché il mio mandato è fare discepoli. E ho un tempo breve, molto breve, troppo breve per poterlo fare. Poi non lo potrò più fare per tutta l'eternità. Questa è l'occasione. Questa è l'occasione che la Chiesa ha di testimoniare di Cristo. Questo è il tempo. E io e tu oggi, davanti a quel pane, davanti a quel vino, davanti all'evidenza del Dio e uomo Cristo Gesù, che ha dato tutto se stesso per noi, tutto il suo tempo, tutta la sua forza, tutte le sue energie, tutto quello che aveva per servire il mondo intero. Davanti all'evidenza di queste cose dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere che ne faremo di questa settimana. Ne faremo un'occasione per stare un po' nel nostro mondo e un po' insieme all'esercito di Dio? O sarà una settimana che tu riscatti completamente, dove metti tutto da parte? E come alcuni di noi addirittura hanno fatto, prenderai giorni di ferie dal lavoro per essere prima linea a combattere affinché l'Evangelo si espanda nella nostra città insieme al popolo di Dio che scende in piazza. Qual è la tua scelta? Qual è la tua scelta oggi? Per cosa vivi? E per cosa vuoi vivere veramente? È l'ego che deve morire. Oggi non c'è più la statua di Babilonia che si alza, ma c'è una statua di 9 piani e brillante e piena di oro che ha il tuo nome sopra. Probabilmente ciò che più ti allontana da Dio e non ti permette di metterlo al primo posto nella tua vita sei proprio tu. È il tuo ego, sono i tuoi bisogni, sono le tue passioni, sono le cose alle quali tu sei affezionato. E forse stamattina, un po' come Dio ha fatto per Abramo, Dio sta dicendo a te: sacrifica l'Isacco, sacrifica quella cosa che ti è cara, che ti è così preziosa, perché io ho di più per te. Non ti voglio derubare, non ti voglio privare di cose, ti voglio far arricchire di cose più preziose e eterne. Volgi il tuo sguardo a ciò che è nei cieli, a ciò che ha un peso eterno. Un'anima salvata non ha prezzo, fratelli. Un'anima salvata non ha il prezzo di nessun bene, di nessuna vita, delle migliori che tu possa vivere su questa terra. Un'anima salvata per l'eternità, che prezzo può avere? Tutto. Ne vale la pena per tutto. Non è di poco conto. E se tu sei qui questa mattina è perché qualcuno ha preso del tempo, è perché qualcuno si è sacrificato, è perché qualcuno ha annunciato a te l'Evangelo. Se sei qui e mi stai ascoltando è perché qualcuno è venuto e ti ha offerto, ha dato generosità, ha messo a disposizione la sua generosità per portarti al Re dei Re. Ora tocca a te. È come un testimone che ti è stato passato. E tu hai la possibilità di passarlo ad altri, vedere altre persone salvate, altre persone nella tua famiglia, altre persone nel tuo condominio, altre persone nella città. Quei volantini che abbiamo messo sulle sedie sono dei semplici inviti, però il peso di quell'invito sta nel tuo annuncio dell'Evangelo. Hai un pretesto meraviglioso in questa settimana per andare a quelle persone che magari ti fanno tremare le gambe, che magari già hanno rifiutato tante volte di ascoltarti. Hai la possibilità di andare a quelle persone e dire: io voglio invitarti ad una serata che può cambiare la tua vita. Ed insieme in quella serata ci alziamo in piedi. Amen. Non lo farà solo chi starà sul palco, lo faremo tutti noi. Lo faremo tutti noi, non spargendoci e defilandoci, passeggiando in una maniera equivocabile, no? Che si capisce, non si capisce che sei parte della Chiesa, che sei parte di tutto questo. Io spero di poter vedere una Chiesa che è lì e ci mette la faccia e fa capire: io sono qui proprio perché io credo in tutto questo. Io alzo le mie mani perché non ho vergogna del Dio in cui credo. Io sono con loro e ti annuncio Cristo. non sono un osservatore nascosto e defilato, io sono qui perché voglio parlarti di Cristo come stanno facendo dal palco, con loro. Questa è la scelta che dobbiamo fare, sono scelte concrete che fanno la differenza, perché poi quando parliamo di idolatria e di cose, di statue, e di, ci sembra così tutto lontano, ma dobbiamo sfatare queste cose e comprendere la scelta concreta che lo Spirito Santo ci sta guidando a fare stamattina. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, è il caso di dirlo, eh? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo prenderci per mano. Hai un santo alleato alla tua destra, alla tua sinistra. Sei parte di una santa alleanza e di un esercito potente che conquista in battaglia. Padre, insieme veniamo a te, riconoscendo quello che tu hai fatto per noi, per darci salvezza. Grazie perché sei morto, hai dato tutto te stesso per noi. Grazie perché tu ci hai messo non solo la faccia, tu ci hai messo tutta la tua vita. Tu sei sceso dal trono di gloria nei cieli per vivere una vita sacrificata nell'amare e nel servire gli altri. E Padre, noi vogliamo essere quella chiesa che ti rappresenta, noi vogliamo essere quella chiesa di cui si può dire: sono come Gesù, sono come Lui, amano come Lui, servono come Lui, parlano come Lui. Gesù, noi vogliamo essere come te, noi vogliamo portare l'annuncio dell'Evangelo, l'annuncio della buona notizia che salva ancora oggi, e noi preghiamo per un'effusione, un riempimento dello Spirito Santo, come Pietro e gli apostoli hanno ricevuto nel giorno di Pentecoste, che ha dato a loro sicurezza, coraggio, forza per alzarsi in piedi. Io prego, Spirito Santo, di battezzarci e riempirci di te, di farci traboccare della tua potenza. Che le nostre parole non possano essere le nostre parole, ma che possano essere le tue parole. E che la nostra forza non possa essere la nostra forza, ma possa essere la tua potenza. Noi desideriamo te, Spirito Santo. E nel celebrare la morte e la risurrezione di Cristo, io prego che tu, Spirito Santo, possa riempire le nostre vite e darci potenza per alzarci in piedi in questa settimana, per essere una testimonianza per la tua gloria. Benedico il pane e il vino, benedico questo tempo di comunione con te e benedico la tua chiesa affinché possa essere un esercito potente in battaglia, nel nome di Gesù. Amen. Amen.